senza Jimmy Fortin, un fighter tocca le stelle. È stato un attimo, poi ho sentito il cielo sulla pelle. Se perdo quest'anima nel vuoto dello scrivere, tu sei tutto ciò che il sole non potrà dividere. So che quella notte ho chiuso luce su una mano, e sento forte la mia schiena, hai detto portami lontano. Se scrivo sul vento ora che ho troppi infami intorno, tu resta a mio fianco se l'alba non ha ritorno. Se volto lo sguardo e ripenso a ciò che ho perduto, tu sei tutto ciò che non ho mai davvero avuto. Ora che lascio nel cuore tra fantasmi nelle sfide, lascio il cielo alle mie spalle mentre lei che mi sorride. Se guardo negli occhi la vita, so che ormai tardi, la luce dei miei pianeti mi rivora gli sguardi. Se cadranno stelle adesso so che ci sarai. Salto forte la mia mano e ho detto non lasciarmi mai. Cuore lirico, the real story. Ma questa è una storia vera, l'ho scritta sui cieli. Non pensavo che ce l'avrei fatta, vero? Cuore lirico, le stelle all'universo. Cuore lirico, del fuoco in ogni verso. Cuore lirico, i volti di chi è smarrito. Cuore lirico, in ogni cielo infinito. Cuore lirico, le stelle all'universo. Cuore lirico, del fuoco in ogni verso. Cuore lirico, i volti di chi è smarrito. Cuore lirico, in ogni cielo infinito. Se sputo l'infanzia in quattro quarti sulle strade, questo va dai miei frassi fino al pianto di mia madre. Sono sussurri e voltare il fuoco che ci accomuna. Tu cammini sole, tieni al cuore la mia luna. Se fissi il passato ora ti guardo mentre tremi. So che mi stringi forte, non parli dei tuoi problemi. Hey, ma è stato in alto così, lo giuro mai. Se domani non vi è luce, so che non ti scorderai. Se il cielo non mi ama, resto solo ad ascoltarlo. Vorrei portarti lontano, non ho le ali per farlo. So che reggi degli atti, nel vento non può morire. Per me, se tutto ciò che il mondo non potrà sentire. Se tramuta roba e strappa la luce di vero. So che il pianeta uccide e volge sogni nella cenere. Già stammi vicino, questo è quello che vorrei. E se cadranno stelle adesso so che tu ci sei. Ehi hey. Se già Miss Overfighter digerio con me. Al mio fra Blade, anche i fighter hanno un cuore. E a tutto che ci gira intorno. Se non pensavi che avrei mai detto questo, vero? Hey. Cuore lirico, le stelle all'universo. Cuore lirico, del fuoco in ogni verso. Cuore lirico, dei volti di chi è smarrito. Cuore lirico, in ogni cielo infinito. Cuore lirico, le stelle all'universo. Cuore lirico, del fuoco in ogni verso. Cuore lirico, dei volti di chi è smarrito. Cuore lirico, in ogni cielo infinito. Cuore lirico, le stelle all'universo. Cuore lirico, del fuoco in ogni verso. Cuore lirico, dei volti di chi è smarrito. Cuore lirico, in ogni cielo infinito. Cuore lirico, le stelle all'universo. Cuore lirico, del fuoco in ogni verso. Cuore lirico, dei volti di chi è smarrito. Cuore lirico, in ogni cielo infinito.